Ripensando alla tua vita, mi dici cos'è per te la violenza? La violenza per me è una sensazione di paura La violenza può essere uno sguardo, un contatto, una parola. La violenza per me è l'assenza di una persona che dovrebbe essere presente. La violenza è qualcosa che si può provare come un sentimento, come qualcosa di interno, qualcosa con se stessi o più comunemente in relazione con gli altri. La violenza è qualcosa che ti colpisce e che molto probabilmente non ti aspettavi. La violenza per me è qualcosa che rompe i miei confini e infastidisce la mia armonia. La violenza, io non ci ho pensato granché. La violenza per me è qualcosa che ti fa sentire molto debole e molto vulnerabile. La violenza per me è esattamente l'opposto dell'incontro, quindi è la mancanza dell'incontro. La violenza per me è un forte urto, è come praticamente un temporale in una giornata di sole, cioè praticamente qualcosa che ti sconvolge totalmente, in modo negativo. Cosa associ al viola? Al viola associo il colore della mia penna quando scrivo gli appunti. Al viola mi viene spontaneo associare la natura. Al viola associo il calore e la frutta e l'autunno. Al viola ho subito pensato alla verdura, per esempio a una melanzana. Al viola associo la bandiera di Arcilesbica. Associo le pubblicità degli anni 80-90 sulla IDS. Io avevo un vestito da strega viola ed era il mio preferito, quindi ho subito pensato a quello. E invece il vestito dei cardinali, forse? O comunque la chiesa? Io al viola associo un colore dell'arcobaleno. Ah, io lo associo alla paura e alla violenza. Tu sei consapevole della violenza che ti circonda? Non lo so, probabilmente in una piccola parte. Ci faccio caso abbastanza spesso. Alle volte attutisco questa consapevolezza per sopravvivere. No, direi che sono abbastanza incosciente. Non riesco a vedere chiaramente bene sempre dov'è la violenza. Sì, ne vedo tanta. Io ho provato la violenza e so cos'è e mi rendo conto che c'è. Io cerco di non vederla. Tendo ad attutirla con i sorrisi, ma è ovunque. Hai paura della verità? Sì. No. No, mi piace. No comment. Ma cos'è la verità? Non so. Sì, fa crescere. Non credo di conoscerla. Non ho paura della verità. Un po' sì. Può ferirti di più qualcuno che conosci bene o qualcuno di cui non sai nulla? Qualcuno che conosco bene. Dipende dal tipo di violenza. Penso che la persona che mi può ferire di più sia la persona o le persone che amo. Sì, in modo diverso entrambi possono ferire, quindi dipende. Per come reagisco io, più da una persona sconosciuta. Sicuramente le persone più vicine a me sono più... hanno un'arma a doppio taglio alla fine, perché anche se mi vogliono bene possono sicuramente ferirmi, quindi... Entrambi in egual misura, ma penso che la persona che possa ferirmi maggiormente sia io stessa. Entrambe, però una persona che ti conosce di sicuro ha più possibilità di farti del male perché conosci i tuoi punti deboli. Non posso dire in termini di intensità o di quanto poi ci starei male, però sì, dipende dal tipo di violenza, ma comunque... La cosa che mi viene più spontanea a pensare è quando posso essere ferita da una persona che amo. Secondo me può ferirmi di più qualcuno che amo, ma non sottovaluto neanche qualcuno che non conosco. Cosa consideri violenza se ripensi alla giornata di oggi? Entrare in auto contro mano. Quella che ho agito rispetto al mio ragazzo che dormiva e io mi sono messa a saltare sul letto. Nulla, oggi nulla. È molto bello sentire che possiamo parlare di questo in modo sereno. Oggi nulla, no, dormito stamattina quindi nulla. Riprendere mia sorella pesantemente perché si era svegliata quando poteva dormire. Il buio mattutino alle 7:30. E cercare di snodarmi i capelli la mattina. Stamattina in particolare l'indifferenza e poi la giornata è andata meglio. Il fatto che sull'autobus ho pestato i piedi a parecchia gente. Le cacche per strada. Se ripensi ad un momento in cui hai osservato un atto di violenza, puoi descrivermi come reagiva il tuo corpo, il respiro, il battere del cuore, qualcosa che riesci a ricordare? Io mi viene in mente una sensazione alla gola che però non riesco a ricordarmi bene in questo momento. Però sì, è qualcosa di tipo una specie di nodo nella gola, non so. E poi poco dopo mi viene in mente una sensazione di stomaco e con come se volessi un po' vomitare, cioè veramente nausea, forse è più vicino alla nausea, però non proprio, non mi ricordo bene. Sì, direi la gola, si blocca il respiro, non passa. Per me sintomi vicini a un attacco di panico, quindi forte emozione, forte tremore. ansia. Un nodo allo stomaco e movimenti confusi. Io ricordo in me il panico e la totale paralisi di ogni mio arto, fino ad arrivare ad una rottura di questa sensazione e un bisogno di agire, un bisogno di fermare questa violenza, perché se fosse andata avanti non sarei riuscita a gestire quello che mi stava succedendo. Sensazione di caldo e freddo nel corpo e un nodo alla gola. La testa, la confusione, iniziavo a mescolare delle immagini e facevo fatica a respirare e sentivo fortissimo il cuore, che di solito non sono abituata a sentire il battito del mio stesso cuore, e quando lo sento che va molto più veloce, molto più forte, ho iniziato a sentire una sensazione diversa e quasi davvero simile al panico, all'ansia. Mi sembra quasi che tutto ciò che è intorno a me si blocchi, non riesco a respirare finché non faccio qualcosa, non riesco ad andare avanti, a vedere nient'altro. I denti si stringono tanto, la mandibola fortissimo, e quindi tutti i muscoli poi di seguito in tutto il corpo, e invece gli occhi sballonzano un po' di qua e di là e tutto si sfoca. Sento tensione in tutto il corpo, irrigidirsi, come diventare un blocco di muscoli, e una vibrazione che forse potrei dire ha a che vedere con la rabbia. Sì. Che cos'è la violenza per te? È un modo per sfogarsi contro qualcuno che non ne ha colpa. Insultare delle persone per sentirsi migliore dell'altro. È quando una persona insulta oppure si sfoga su un'altra persona, anche se quella non ha fatto niente per... Una persona che insulta qualcuno che ha fatto qualcosa da male. Secondo me è una persona che se la prende con una persona più debole. E la violenza è qualcuno che incolpa qualcun altro di qualcosa che non ha fatto e che non si merita. È quando una persona picchia un'altra persona per sentirsi più coraggioso e più potente. E secondo me è quando qualcuno se la prende con un altro senza motivo, oppure quando c'è un motivo, tipo non so, e passa qualcuno, ti prende il portafogli, comunque è un metodo per risolvere violento col mani. O dipende. Cioè, possono anche essere utilizzati oggetti. Che cos'è il contrario della violenza? Il contrario della violenza è quando due persone, o comunque una persona, non se la prende con un'altra facendo insulti e quindi diciamo sono amiche e non si insultano oppure si picchiano. Allora, il contrario della violenza è tipo quando una persona vuole bene a un'altra e l'aiuta, e quando tipo è in un momento difficile gli sta accanto, l'aiuta. Che l'aiuta, che l'aiuta per se qualcosa non capisce, non coraggia. Secondo me è quando due persone si vogliono bene a vicenda e sono giuste tutte e due, sono giuste a vicenda. Il contrario della violenza è accettarsi come una persona è e volersi bene anche per qualsiasi altro motivo. Per me è quando due persone stanno bene insieme. E per me è esattamente il contrario, invece che litigare le persone si apprezzano e invece che non aiutarsi si aiutano. E secondo me è il volersi bene tra due persone e accettarsi così come si è. Ti fa paura la violenza? Sì, perché cioè sì, non lo so, mi fa paura, cioè, perché se una persona cattiva tipo mi si avvicina, io non so cosa fare, cioè, ho paura, boh. Sì, perché qualcuno ti può fare del male e hai paura di quello che ti fa. Sì, perché ci sono molte persone cattive. E quindi bisogna stare attenti e può fare paura. Sì, la violenza mi fa paura perché puoi sentirti non accettato ma anche aggredito da altre persone. E appunto nel mondo ci sono tante persone cattive che ti possono fare del male. Sì, perché ti puoi sentire come sottomesso da un'altra persona perché ti picchia sempre, quindi un po' e anche verso gli altri, perché spesso a me non succede mai e vabbè, verso gli altri succede che in molti paesi ci sono le guerre, quindi cioè comunque non so. E ci sono persone che sottomettono altre persone, quindi non è una bella cosa, diciamo. Sì, perché mi potrebbero far sentire sottomessa oppure non giusta, e quindi poi cioè mi farebbe male. Sì, perché al mondo ci sono molte persone cattive, come è successo agli altri, potrebbe succedere anche a me. Ti sembra che ci sia violenza attorno a te? Sì e no. Io non l'ho mai vista, però si sente anche al telegiornale che la violenza ce n'è e ce n'è anche molta. E attorno a me no, ma poi anche si è sentita, cioè puoi sentirla attorno, cioè puoi sentirla da altre persone, ma non l'ho mai vista io. No, però vicino c'è, perché vicino anche nei paesi vicino all'Italia c'è la guerra. No, attorno a me non c'è violenza, però pensando ad altre persone sì. Attorno a me non c'è violenza, però se uno apre un po' di più gli occhi la vede. No, perché attorno a me ci sono i miei amici e tutte persone che conosco, anche però ci può essere un po' più lontana da noi. Attorno a me no, però ci sono molte altre persone che vengono picchiate o gli vengono detti degli insulti, anche se non hanno fatto niente, si sentono inferiori o non giuste e dopo possono farsi del male. Qual è la parte del tuo corpo che ti piace di più? Gli occhi. Gli occhi. le parti del corpo che ti permettono di muoverti, che così si può giocare, fare tutte queste cose. E i miei capelli. Tutto, cioè non ho preferenze. Cioè anche solo senza un dito cambierebbe tutto. A me le mie mani. Le lentiggini. Anche a me tutto, perché se no non potrei giocare, oppure non potrei scrivere, non potrei fare niente.